Italia in controluce. Primo settembre, Italia in controluce, due edizioni al giorno. La prima, quella che state ascoltando, per condurvi passo dopo passo nel mondo della cronaca. Un buongiorno da Daniele Biacchessi. Siamo a Milano e siamo nel quartiere del Corvetto, un luogo che negli anni si è certamente degradato fino alle ultime aggressioni gravi di quest'estate. Al Corvetto è andato per noi Giovanni Capuano. Quando sono venuti su negli anni del dopoguerra, questi palazzi erano l'anima operaia e partigiana di Milano, una piccola città nella città che con il passare del tempo è diventata sempre meno Milano e sempre più emergenza, in mano alla piccola criminalità organizzata, poi negli anni 60 alle grandi famiglie venute dal sud e adesso soffocata dalla presenza degli stranieri, quasi la maggioranza li si vede anche girando per le strade, irregolari, vite spesso al limite, al soldo degli italiani, impiegati nello spaccio. 4 anni fa la rivolta del Corvetto finì su tutti i giornali, un comando di polizia assaltato, in questa calda estate la scena si è ripetuta e il Corvetto è tornato sotto i riflettori della cronaca con il suo chilometro quadrato d'asfalto, i suoi problemi, le sue contraddizioni. Piazza Gabriele Rosa, la parte più degradata del Corvetto, si accede da qui, è un grande piazzale sulla circonvallazione di Milano, un grande spiazzo verde. Qui c'è anche l'unico punto di ritrovo di tutto il quartiere, è una parrocchia. Anche oggi ci sono 2 camionette dei carabinieri, sono ferme davanti alle vetrine di un piccolo supermercato, stanno facendo controlli di documenti. Via dei 500 è una lunga striscia d'asfalto, una striscia d'asfalto lunga 1 chilometro. A destra e a sinistra solo case popolari, qualche centinaio di metri. E qui, all'angolo con Via dei Panigarola, l'episodio, l'aggressione a un vigile urbano circondato, picchiato da una 20ina di balordi. Stava cercando di arrestare un pusher marocchino, è stato costretto a farlo scappare. Ho avuto la sensazione di essere da solo contro 20 persone. È una sensazione particolare in un quartiere di Milano? È una sensazione particolare dovunque, essere da solo contro 20 persone. Bisogna fare capire a queste persone che lo Stato e le istituzioni sono la risposta a volte ai loro problemi. Cioè, siamo amici, non nemici. Loro ci vedono proprio come degli antagonisti. Poche centinaia di metri, piazzale Ferrara. È qui che si affacciano 4 bar, uno per ogni angolo. Sono i bar dove, dicono i residenti, ci sono gli stranieri, dove c'è lo spaccio. Anche qui ci sono 2 camionette, queste sono camionette della questura, della polizia, e stanno proprio controllando i documenti a cittadini stranieri. Io li manderei al loro paese, quelli che non hanno un lavoro, via, tutti via. Lei esce la sera? Io esco col cane alla sera, però verso le 9, però ho paura, coprifuoco. Ha paura di sera quando... Sì. Loro non lavorano. Non so perché il motivo, e ormai sono abituati che spacciano droga, c'è tanti magrebini, marocchini, diciamo che... E voi li vedete di notte, di sera? Ci sono, sì. Qui è pieno di extracomunitari. È quello il problema? Il problema è quello, sì, senz'altro. Non le famiglie italiane? Non c'entrano niente, perché questi bar che sono qui litigano fra di loro, si tirano bottiglie... Una svolta a destra e si entra in un'altra delle strade del Corvetto, anche qui solo case popolari, addirittura i citofoni coperti con le inferriate per evitare che atti di vandalismo continuino a metterli fuori uso dopo che continuamente vengono riparati. Il Corvetto come via Padova, via Ripamonti, Paolo Sarpi, bombe sociali pronte ad esplodere dopo anni di disinteresse. Milano ha scelto di rispondere con la tolleranza zero, ordinanze di coprifuoco, presenza di militari e forze dell'ordine, controllo del territorio perché, dice Tullio Mastrangelo, comandante della polizia locale, non possono esistere quartieri dove la legge non entra. Forze dell'ordine entrano in tutti i quartieri, in tutta Milano, i reati sono in diminuzione. Certamente ci sono situazioni dove c'è del degrado, come in tutte le metropoli. Al Corvetto qual è il problema? Perché gli italiani accusano gli stranieri, tanti, incontrollati. quello che è la reazione del tessuto sociale del quartiere è senz'altro straordinaria. Certamente è un lavoro che bisogna continuare a fare tutti i giorni con impegno e serietà per cercare di riportare anche il Corvetto a una situazione di completa legalità. Eppure sulla tolleranza zero la città si è divisa, un modello che non piace ad esempio a Don Gino Rigoldi, prete di periferia e cappellano del carcere minorile Beccaria. Io vorrei sapere quale papà o mamma, quale nonno o nonna pensa che i figli si allevano soprattutto a schiaffi. Normalmente c'è un dialogo, c'è un capire quali sono i bisogni dei giovani, ma anche degli adulti intorno a noi per dare delle risposte. Il comune si difende con i numeri, qui come altrove in pochi mesi centinaia di denunce, controlli, decine di arresti, appartamenti dormitorio sigillati, una maggiore sensazione di sicurezza visibile anche solo per il passaggio continuo delle camionette. Il sindaco Letizia Moratti. Io credo che come nelle famiglie, come coi figli, ci sono dei momenti nei quali bisogna essere rigorosi e dei momenti nei quali c'è bisogno di dolcezza. Quanto accaduto al Corvetto, lei lo considera un episodio isolato o la conferma di un campanello d'allarme? Ma rispetto alla sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia. Le ordinanze verranno estese anche ad altre zone difficili. La gente del Corvetto osserva le camionette di polizia e carabinieri andare e venire, osserva e spera. Chi vive male, insomma, ecco, non è più quel vivere di una volta che si poteva fidarsi con la porta aperta. Mi pare che 50 anni che sono qua, non è due giorni, Italia in Controluce, la prima edizione, Radio 24 Italia in Controluce è il nostro gruppo su Facebook. Potete scaricare tutte queste puntate sul sito radio24.it in podcast. Torniamo oggi 13:30 su Radio 24 con nuove storie.